Para saber cómo hay que hacer, una rica comida. Vamos a cantar, una bella canción, la vera polenta. Cuando si pianta la vera polenta si pianta con si. Si pianta con si. Vera polenta con si. Cuando si crece la vera polenta si crece con si. Si pianta con si. Si crece con si. Vera polenta con si. Cuando si fiore la vera polenta si fiore con si. Si pianta con si. Si crece con si. Si fiore con si. Vera polenta con si. Cuando si tala la vera polenta si tala così. Si pianta così. Si crece così. Si fiore così. Si tala così. Vera polenta così. Quando si muole la vera polenta si muole così. Si pianta così, si cresce così, si viene così, si dalla così, si muole così. Vera polenta così. Quando si cuece la vera polenta si cuece così. Si pianta così, si crece così. Si fiore così, si tala così. Si muore così, si cuece così. Vera polenta così. Cuando si mangia la vera polenta,